Quest'anno è stato un anno estremamente frizzante, sono accadute tantissime cose, molte cose ci hanno messo molti mesi ad accadere. Direi che è stato un anno di svolta in cui siamo passati da una situazione di mercato tendenzialmente chiusa a una situazione di mercato che si sta aprendo. Sul fronte tecnologico, come non ricordare il WiMAX, è stato pubblicato il bando sul WiMAX dopo molti mesi di gestazione, doveva essere pubblicato entro l'estate, è arrivato un po' dopo, però naturalmente questo è l'introduzione della nuova tecnologia che cambierà decisamente la forma del mercato, magari non tanto in questo primo lotto con queste prime frequenze, ma con le gare successive sulle frequenze più basse, 2,3 GHz. Quindi possiamo dire che dal punto di vista WiMAX almeno abbiamo iniziato una nuova era, cioè la rete comincia gradualmente a estendersi grazie alle tecnologie radio. Sì, assolutamente. Dopo l'Iperlan, che era già stata liberalizzata con il precedente ministro, adesso con il WiMAX andiamo a dare un ulteriore contributo per la riduzione del digital divide ed è una cosa molto importante. Senti, un giudizio flash su come è stato fatto il... al di là del bando, ma insomma questo approccio al WiMAX in Italia, visto che è stato molto criticato, come lo possiamo definire? Io direi insufficiente, è caratterizzato da poco coraggio a vantaggio del mercato, sembra come se ci fosse stata una paura a far entrare un elefante in una cristalleria che potesse scombinare un po' le carte. Mi riferisco in particolare al fatto che, a differenza di quanto era accaduto con il wireless local loop, con la gara precedente sulla rete, sull'ultimo miglio wireless, qui non è stato proibito, vietato agli operatori che già dispongono di tecnologie radio, quindi i vari operatori UMTS, di partecipare a questa gara. Se ci fosse stato il divieto per questi operatori a partecipare a questa gara, ci sarebbero stati nuovi operatori che entravano e quindi un aumento della concorrenza, quindi direi un po' poco coraggio. Il poco coraggio, come dicevo, i tempi sono stati lunghi su tante cose, ad esempio il bitstream è questa modalità tecnologica di fare le offerte all'ingrosso da parte dell'operatore dominante, e la farina che viene venduta ai fornai per poter fare il pane, che è questa modalità che darà maggiore autonomia di prezzi, maggiori prestazioni per gli utenti, minor prezzo al kilobit per gli utenti, e questo è stato un procedimento fatto dall'autorità delle comunicazioni che è durato molto a lungo. Adesso diciamo siamo agli sgoccioli, se non vedremo proprio tutti gli ultimi dettagli nel corso dell'anno, però diciamo nel corso dell'anno il frutto è maturato e questa è una cosa molto buona per gli utenti. Stiamo parlando del mercato ADSL, che cosa possiamo pensare che accadrà nei prossimi mesi grazie a questa innovazione che chiamiamo appunto Bitstream? Ma allora, sì, stiamo parlando del mercato a banda larga attraverso il filo in rame, e quindi mercato di ADSL e HDSL, ma in realtà non solo, perché all'interno del provvedimento Bitstream è ricompresa anche la fibra ottica là dove esiste. Che cosa accadrà? Diciamo, l'ultimo dettaglio che manca è definire bene il prezzo della farina. Ora è stato definito qual è la farina: c'è la farina di grano duro, la farina di soia, ci sono tutti i tipi di farina, i diversi livelli di macinatura, la diversa qualità. Adesso manca solo da definire i prezzi e ci si sta avvicinando e si sta convergendo verso dei prezzi. Se i prezzi saranno adeguati, quello che ci possiamo, e io ritengo che probabilmente lo saranno, se i prezzi saranno adeguati ci potremo aspettare un fiorire di offerte con velocità diverse, quindi non più solo tutte le offerte fatte con lo stampino sulla base di offerte di Telecom, offerte con grande variabilità di velocità in upstream, in downstream, a prezzi decisamente convenienti, se viene rispettata quell'indicazione dell'autorità che dice che i prezzi devono essere orientati alle migliori pratiche europee, ovvero a quelle della Danimarca e del Belgio. Dove la DSL, ad esempio, quanto costa? Allora, diciamo, l'entry price non è tanto diverso, è quello che ti viene dato. Oggi ti vengono dati 5 kilobit tipicamente di garanzia con una DSL, invece magari diventeranno 200. Oggi magari hai un upstream, hai un collegamento a molti megabit in downstream, ma verso il centro della rete upstream sei limitato. Ecco, questa limitazione sparirà. È chiaro che nasceranno anche delle offerte low cost, possiamo pensare al 10, 12, 15 euro al mese. Queste sono cose che sono 10 euro, 12 euro al mese, sono cose pensabili con delle bande abbastanza significative, e come fatto diffuso, non come fatto episodico per campagne di marketing di un operatore, che quelle ci sono già adesso. Verrà dato molto di più a parità di denaro, questo sicuramente.